pezzo volete? Noi facciamo pezzi a richiesta, visto che improvvisiamo. Eri per caso! No, quello è fatto con le voci. Jazz per caso! Ciao, Roale! Vabbè, che Roale è proprio stasera, cazzo! Free jazz giapponese no, dai. Cultura, cultura, un po' di noise. Un po' di noise? Veramente? No, vabbè, no. Una richiesta seria. Alright. Eh? Non so, queste qua sono richieste alla milanese. Le accettiamo. Caffè doppio, secondo Casadei. Liscio, liscio, liscio. Vai, vai liscio. Facci la tua preferita. Che ci piace. Si pensa al maestro Guglielmi a, a cantarci, dai, sì. Thank you. Grazie.